Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità, perché cerchiamo di capire come la società umana considera, tratta, ma anche pensa la sua relazione con gli animali altri. Siamo al fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista dei diritti che spettano loro, in una prospettiva ecocentrica, quindi superando la visione attuale, quella di un'unica specie, cioè la nostra, con diritto di vita e morte su tutti gli altri viventi o comunque con il diritto di devastare il territorio, la natura, a proprio uso e consumo, come è stato negli ultimi secoli. Riteniamo ogni singola vita degna di essere vissuta. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 709, parleremo della capretta uccisa barbaramente a calci, ad anagni, da un gruppo di ragazzi che festeggiavano un 18° compleanno, dell'importanza dello zooplancton e di quanto ci importa dei pinguini imperatore. Torneremo a Sparta, riserva dell'animalità, per la terza puntata del nostro reportage da questo rifugio eccezionale, unico, che abbiamo intitolato Voci Spartane. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a tema e tanta ottima musica. Speriamo di avervi incuriosito. Queste cose vorrei dirtene all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto, urlarle dentro un bosco, nel vento, per vedere se mi sta ascoltando. Queste cose vorrei dirtene sopra la techno, a cartocciarle dentro un foglio e poi c'entrare. Stuprano ragazzine vigliaccamente in tanti usando la forza e filmano le violenze che compiono. È successo più volte negli ultimi giorni in regioni diverse d'Italia. Una cosa che fa semplicemente orrore. Allo stesso modo, in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi è accaduto che un gruppo di ragazzi della Fiuggi Bene che festeggiavano un 18° compleanno abbiano ucciso a calci una capretta, una piccola capretta di pochi mesi, immortalando l'azione in un video pubblicato sui social. La capretta, probabilmente incuriosita dalle urla e dalle risate di un gruppo di ragazzi, si è avvicinata, forse per giocare con loro, era abituata alla presenza delle persone, ma questa volta ad attenderla non erano carezze. In uno dei due video pubblicati si vedono dei ragazzi che tra risate, parolacce e sghignazzi prendono una carriola, la utilizzano per trasportare la capretta indifesa e inconsapevole. L'animale viene lanciato da un muretto, rovina a terra e successivamente uno dei giovani comincia a prendere a calci questo animale, uccidendolo tra le risate dei presenti che lo incitano ad andare avanti. Nessuno prova a fermarlo. Il giovane continua anche dopo che l'animale è chiaramente morto, sotto lo sguardo divertito degli amici che riprendono la sua impresa. Scioccato, il titolare dell'agriturismo ha sporto denuncia presso la compagnia dei carabinieri di Anagni. La gravità di questo gesto è allarmante. Questi ragazzi sono entrati nella maggiore età con questo rito di passaggio, con questa iniziazione violenta. Forse lo hanno fatto per dimostrare al mondo di essere veri uomini, per dimostrare quella insensibilità al dolore altrui che viene richiesta in un certo tipo di ambiente maschilista, misogino, violento, patriarcale. La dinamica è simile a quella che si è verificata durante gli stupri ai danni di giovani ragazze, anch'esse filmate nella loro agonia. Dal nostro punto di vista ci viene da dire che queste persone sono pronte per andare a lavorare in un mattatoio. Negli Stati Uniti l'FBI ha sempre fatto notare che le violenze sugli altri animali sono, da un punto di vista criminologico, predittive. Chi uccide, violenta, massacra animali, molto probabilmente, prima o poi, compirà le stesse azioni sugli umani. Questa puntata è dedicata alla capretta di Anagni. Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Ci sono almeno due ragioni per rivoluzionare le nostre abitudini nel segno di un risparmio energetico. Una riguarda lo zooplancton, l'altra riguarda i pinguini. Partiamo dallo zooplancton, qualcosa che ha a che fare con microcosmi a noi ignoti, sconosciuti. Uno studio guidato dall'istituto tedesco Alfred Wegener, recentemente pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, afferma che ogni aumento di temperatura, anche minimo, può causare disastrose conseguenze per l'intero ecosistema. L'assottigliamento del ghiaccio, per esempio, nell'Artico, cambia in modo drastico non solo il paesaggio visibile, ma anche le condizioni di vita di quei minuscoli animaletti invisibili che costituiscono lo zooplancton e che per gli animali più grandi è un nutrimento fondamentale. Quindi l'assottigliamento del ghiaccio aumenta il rischio per gli animali più grandi di soffrire la fame. Per cercare di capire meglio questi meccanismi e i loro effetti sull'intero ecosistema, ancora così poco studiati, i ricercatori hanno progettato e costruito un osservatorio autonomo collocato sotto il ghiaccio durante una spedizione effettuata nel 2020. I dati così ottenuti sono stati poi utilizzati per simulare gli scenari futuri. Nell'oceano Artico, infatti, riducendosi lo spessore del ghiaccio marino, la luce solare può penetrare molto più in profondità sotto la superficie dell'acqua e questo fattore incide sul comportamento dello zooplancton, che in queste regioni segue i cambiamenti della luce, migrando verso la superficie durante la stagione invernale, inabissandosi durante l'estate, proprio perché la luce dà fastidio allo zooplancton. Secondo gli autori dello studio, quindi, gli organismi, trovando una quantità di luce sempre maggiore, rimarranno nelle profondità oceaniche sempre più a lungo, salendo in superficie per periodi brevi, in corrispondenza alla stagione fredda, che sarà sempre più corta. La scarsità di cibo avrà conseguenze fatali per l'intero ecosistema, incluse naturalmente le foche, le balene e gli orsi polari, che soffriranno la fame. Ogni volta che possiamo evitare di usare l'auto o l'aereo, dovremmo pensare a questi animali, a quelli micro, lo zooplancton, e a quelli macro, le foche, le balene e gli orsi polari, così inevitabilmente legati gli uni agli altri. Insieme solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che sesso fa? Mi sta impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio, però tu mi piaci. Oh, oh, oh, ho fatto i salti mortali. Oh, oh, oh, no, non mi dire che è tardi. Ah, ah, ah, avevo voglia di, voglia di, voglia di. Dove vai? Te ne vai. Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Quando abbiamo guardato il film La marcia dei pinguini, abbiamo pianto perché nel film qualche esemplare soccombeva a causa del grande freddo, della fame, perché un uovo cadeva in acqua e si congelava, perché qualche individuo si perdeva, rimaneva indietro, non riusciva a accoppiarsi, o perché la femmina, in modo maldestro, non riusciva a passare l'uovo al maschio e quindi l'uovo andava perduto. E allora cosa dovremmo fare adesso che nei media si è diffusa la notizia di circa 10.000 pulcini di pinguino imperatore che non avevano ancora sviluppato piume impermeabili e che sono morti dopo che un letto di ghiaccio sotto di loro si è sciolto e si è rotto. I piccoli molto probabilmente sono annegati o sono morti congelati. I fatti sono avvenuti nel dicembre 2022 in un'area al largo della penisola antartica chiamata Mare di Bellingshausen e sono stati registrati dai satelliti, come riporta uno studio pubblicato sulla rivista Communications Earth and Environment. Le immagini satellitari esaminate dai ricercatori mostrano che la colonia di pinguini è scomparsa nel giro di poche settimane. Un'immagine scattata dai satelliti il 28 ottobre dello scorso anno mostra ancora la colonia presente sul letto di ghiaccio. Ma solo due mesi dopo, nel dicembre 2022, la colonia sembra essere scomparsa, mentre pezzi di ghiaccio galleggiano nel mare. I pinguini imperatore dipendono dal ghiaccio marino per il loro ciclo riproduttivo. È il ghiaccio la piattaforma stabile che usano per allevare i loro piccoli, ma se quel ghiaccio non è esteso come dovrebbe essere o si rompe più velocemente, questi uccelli non riescono a sopravvivere. Lo spiegano gli esperti del British Antarctic Survey che hanno partecipato allo studio e aggiungono un appello. Abbiamo una speranza, possiamo ridurre le nostre emissioni di carbonio che stanno causando il riscaldamento. Ma se non lo facciamo, porteremo questi iconici meravigliosi uccelli sull'orlo dell'estinzione. Le proiezioni degli scienziati, infatti, affermano che oltre il 90% dei pinguini imperatori sarà quasi estinto entro la fine di questo secolo, se il riscaldamento terrestre continuerà a progredire come sta facendo. Negli ultimi 7 anni, il ghiaccio marino attorno all'Antartide è diminuito in modo significativo, afferma la ricerca, e alla fine di dicembre 2022 l'estensione del ghiaccio marino era la più bassa mai registrata nei dati satellitari degli ultimi 45 anni. Hai 18 anni e non sai dove aggrapparti, non sai con chi parlare, non sai di cosa farti, che ci vogliamo fare? Mi chiedi il venerdì. Ho 18 anni e non sono come gli altri, non cerco un'università ma cerco di calmarmi. E che ci posso fare? Forse vivrò così. Sogno Amsterdam e le sigarette, i viaggi in strada con gli amici di sempre. Ma nessuno ha preso la patente, ma nessuno ha più concluso niente. Passassi di qua non mi dispiacerebbe ricordare la scuola e ricordare le feste. Se passassi di qua non mi dispiacerebbe fare finta che non sia successo niente. Sparta epica, Sparta storica, Sparta mitologica. Poi c'è una Sparta contemporanea che è già futuro. Sparta è un rifugio per animali liberi e liberati, che è anche una famiglia piena di soggettività animali e si trova in Liguria, per la precisione a Ligassorio, una frazione sopra Pieve di Teco, in provincia di Imperia. Davanti c'è un rifugio, dietro c'è un pensiero, il pensiero di un etologo antispecista, Francesco De Giorgio, e di sua moglie, Josette De Giorgio Schorl, facilitatrice sociale e formatrice nella relazione con l'animalità. Loro si definiscono persone che si dedicano con passione a facilitare un'evoluzione. Esperti nella dimensione della dinamica relazionale interspecista, materia della quale si definiscono guide e pionieri, specialmente quando si tratta di capire e facilitare la soggettività. Francesco e José hanno vissuto molte vite, partendo da Salerno, passando per Napoli, Parma, dove Francesco si è laureato con Danilo Mainardi, poi Roma e l'Olanda. Sparta è un laboratorio di animalità, dove si fa esperienza di etica, soggettività e cognizione animale, tutti elementi che Francesco e José studiano e vivono concretamente nel loro quotidiano da molti anni. E tutto questo si può imparare? Sì, si chiama Learning Animals ed è una scuola all'aperto nella quale tutto quello che conta è allenarsi a coesistere tra umani e altri animali, in ascolto reciproco, ponendosi domande, mettendoci attenzione, curiosità, fantasia e voglia di far parte della stessa avventura, in una dimensione allo stesso tempo nuova e antichissima, è imparare, ma è anche riappropriarsi. Dipende da quanto è potente la memoria delle tue radici profonde. Siamo stavolta alla terza puntata del nostro reportage da Sparta che abbiamo chiamato Voci Spartane. Troverete tutte le voci spartane nella nostra home page www.restiamoanimali.it. Saliamo su un sentiero e scopriamo che uno spazio molto carino con un tavolo, dei cartelloni e sempre le animalità varie che ci tengono d'occhio, che partecipano, che non si perdono neanche un passaggio di quello che sta succedendo. Il piccolo Sparta! È il grande Sparta, foto Lorenzo. Era guarda, piccolo, grande. 12 anni. No. Allora qui abbiamo un manifesto, una foto di Sparta da piccolo, ma proprio piccolo. Proprio cucciolo. Le prime esplorazioni annusa una mano. E qui abbiamo l'adulto, 12 anni dopo, accanto alla foto. È un momento bellissimo perché possiamo vedere tridimensionalmente questa vita che è stata libera, sì. Questo individuo che ha goduto di un privilegio raro per questa specie così massacrata. Lui è proprio 100% animalità, perché gli altri sono arrivati che c'erano 6 mesi, certo loro sono 99,5% animalità, ma lui è proprio nato con noi. Un vero privilegio, sì. Lui è un esempio, è quello che ogni cavallo vorrebbe essere. Sì. Ecco José che ma si avvicina. Anche perché, cioè, così come Sparta, Ninfa non ha proprio il desiderio. Non vuole di essere come Sparta. Ah no! Ninfa vuole essere come Ninfa. Certo, certo. Si torna alla soggettività. Si torna alla soggettività. Mischiata, certo. Sì. Però attenzione, perché qui incontriamo forse anche un discorso ambiguo che fanno nell'ippica. Dicono, no, ma questo cavallo piace correre. Ah no, cavallo vuole essere cavalcato. Quella è la strumentalizzazione della soggettività. Praticamente non la riconoscono o la riconoscono in maniera strumentale, surrettizia, appunto. Sì. E ovviamente non è quello il discorso, diciamo. Anzi, se tu riconosci la soggettività, perché anche nell'addestramento animale, della cinofilia, dice no, anch'io li considero soggetti, uno lo addestro in un modo e uno lo addestro in un altro. E io dico sempre, ma se tu riconosci il principio di soggettività, tu dovresti rinunciare all'addestramento. E così dovresti rinunciare all'ippica, dovresti rinunciare, proprio perché riconosci la soggettività. Il fatto del cavallo che piace correre, quello è spesso quello che si vede, è la reattività di un cavallo. Sì, anche questa è una confusione. È quello che magari no, nel mondo umano con l'entusiasmo, cioè, se tu non hai più una possibilità di fare le tue domande, ti limiti a una vita di reazioni. Per esempio le naiadi, che sono le galline che sono venute liberate da un allevamento intensivo e che stanno qui da un mesetto adesso, tipicamente se tu vedi tutti i video di YouTube, le cose eccetera, tutti parlano del pecking order, cioè dell'ordine di beccata, che le galline vivono sotto questa legge gerarchico-verticistica per cui c'è, diciamo, quindi la gallina alfa, la gallina fa ridere, la gallina beta, il gallo soprattutto, eccetera eccetera, e poi c'è l'ultima. In realtà, perché succede questa cosa, così come nei cani, è che l'ambiente, è come tu faciliti l'ambiente che fai apparire quello che a te sembra una dinamica gerarchica. Perché se tu metti il cibo tutto da una parte, no? Giusto. È logico che si possono Qualcuno creare arriva delle. prima. È logico che ci vuole un ordine di un certo Si tipo. possono creare delle frizioni, dei contrasti, ma non è un ordine, è anche un po' un È un disordine, se... disordine. vedendola proprio da un'altra prospettiva. Invece io faccio in modo che metto mucchietti da tutte parti, pure nascosti, pure dietro, in modo che. E tra l'altro, quella che sarebbe classificata come l'ultima della catena, che è Cassandra, Cassandra in realtà tu la vedi è proprio la più cognitiva, che sa come muoversi, è la più emancipata delle altre, mentre quelle che verrebbero classificate in alto nella gerarchia sono le più reattive, quelle più emotive, più così. Invece Cassandra è molto, è proprio emancipata, potrebbe stare da sola, potrebbe vivere con noi a casa, con Nami. Cioè, non ha, diciamo, questa cosa che sente di dover per forza fare questi confronti. E quindi anche lei proprio smorza l'attrito, facilita la convivenza, diciamo. Invece di fare, diciamo, reazioni, conflitti, eccetera, smorzo, sono neutrale anche nella relazione con Achille. Qual è stata la chiave? Poi ovviamente c'è tutto un percorso con Achille, se entriamo tutti e quattro lui iniziava diventa un Sclera. drago, diciamo. Però proprio che lui caricava, carica ogni tanto ancora adesso e io resto, non ci sono né conseguenze positive né negative. E quindi resta aperto e con l'arrivo delle galline io gli faccio, poi c'ho l'oplium che è una specie di scudo, che è una fotografia, no? In forex tipo questa, no? Cammino così, dice, vai dalle galline, guarda che ci stanno le galline lì. E quindi lui, vabbè, mo vado dalle galline, poi io faccio un passettino e lui fa, faccio una carica? No, vabbè, vado dalle galline. E poi quindi ha iniziato dalle cariche vere, cioè proprio con colpi che mi Una dava, a teatralizzazione una, delle bravissima, cariche. a fare i falsi, le false cariche, come fanno gli elefanti. Quindi io sentivo che lui dietro da me faceva questi passettini. Io mi giravo e lui faceva. No, che diciamo, non aveva Ma ho senso. deciso io. Ma Ho anche deciso perché io di non attaccare. il mio Ho deciso professore io. Gustato, perché io ho fatto i primi 2 anni di università a Napoli e poi mi sono trasferito a Parma con Mainardi, eccetera, eccetera, negli anni 80. Professore Gustato, Zoologia 1, quindi eravamo tutte matricole, 200 studenti nell'aula magna di Napoli, alla Federico II, e fa prima lezione, tale e quale così, era il 1982-83. Waio, massimo rendimento con minimo sforzo. Mettetevi questa cosa in Da capo, cervello, in infatti, da capo, dillo pure. perché... riuscirete a comprendere molte delle dinamiche animali. In realtà pure Achille non ha senso che spreca tutta questa energia. A lui l'energia serve per questioni più importanti. Non ha senso che si mette in guerra con me se invece può ritualizzare che ha un rendimento, deve più mantenere l'energia nel caso arriva la volpe, anziché arriva la poiana, che non arrivano perché li metto stanno in sicurezza, diciamo. E per ora, però comunque c'ha da fare. Adesso, soprattutto con le galline, l'energia la usa per tenere la rete, mantenere la rete delle galline, non per controllare le galline, anche perché le galline sono molto autonome, diciamo. Lì. Era bellissimo l'inizio che lui con le zampe tentava i primi approcci alla gallina, no? Che non le conosceva, quindi anche questo è logico. Non è che so gallo, sei gallina, quindi io subito ti salto addosso. No, gallo faceva così: toccava il dorso della gallina, così leggero, Ah, così. leggero, vedeva se la gallina si metteva così oppure se ne andava da una parte. Era bellissimo da Bellissimo. vedere, diciamo. E poi non è che sta tutto il giorno a cercare, lui Sì. ha anche altri interessi. Ma questo è anche un po', no, l'idea, cioè più c'è irritazione, più probabilmente vedi, più c'è reattività, più viene irritazione, anche quello sono sfoghi di irritazione. Sì, più E aggressività diretta. Invece sì. qua le galline sono cognitivissime, cioè è anche un po' paradossale perché loro vengono da un allevamento intensivo, Però quindi sono giovani. teoricamente dovrebbero essere meno interessate all'interazione con l'umano, però, e questo è proprio un ragionamento complicato, però loro sono assolutamente aperte all'umano proprio perché erano recluse da una parte. Paradossalmente, non hanno pregiudizi. se venivano dal bravo contadino O da una fattoria felice. o da una fattoria felice, poteva essere che avevano dei momenti. Invece loro totalmente morbide, aperte al contatto, mi camminavano già dal primo giorno sui piedi. Anche perché lì c'è più Perché hanno capito sempre. cosa gli è Anche successo. questo, Hanno sì. capito cosa. Poi gli è passato proprio da un momento Ma all'altro, anche proprio. per troppe associazioni cibo, diciamo, Sì. questo demone, io sono buona perché ti do cibo. Ma cioè, quello, dare il cibo rischi sempre di portare reattività. Quindi per quello è sempre lo stesso discorso, no? Quindi diffondere il cibo aiuta a fare scelte, a trovarsi anche il momento di privacy, cioè un animale deve avere il diritto ad avere un momento di privacy mentre mangia. Qualcuno può desiderare di mangiare quello Assolutamente, Vedete come quasi spacca sta. tutti. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013. Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. E anche questa ricetta, come tutte le altre, sarà a tema. Stavolta il tema sono i pinguini, costretti a morire per la scellerata incapacità di cambiamento di chi osa autodefinirsi sapiens sapiens. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per la ricetta a tema di oggi ci giunge in aiuto una copertura molto semplice ma di effetto per torte e gelati, la famosa glassa pinguino. Gli ingredienti per coprire una torta media sono 250 g di cioccolato fondente, 40 g di olio di semi di girasole, 60 g di granella di nocciole. Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Una volta che si sarà ben sciolto, togliete dal fuoco e mescolando delicatamente con una frusta o una spatola, incorporate tutto l'olio di semi. Quando questo si sarà ben amalgamato al cioccolato, unite la granella di nocciole poco alla volta, sempre mescolando delicatamente. Versate la glassa sulla vostra torta e lasciate raffreddare fino a quando sarà ben croccante. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 710 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.